Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana, non dell'anno, perché poi il programma sarà in diretta anche la settimana prossima con Simone Spezia. Puntata che vede anche le borse tutte aperte, nel caso specifico Milano sta guadagnando l'1%, come Parigi, Francoforte più 0,70%, Londra più 0,56%, ma puntata che avrà al centro, oltre che le previsioni, come vi avevo annunciato, a cavallo tra chi investe in borsa professionalmente, lo fa di lavoro, e tra chi invece fa previsioni astrologiche in borsa, mettiamo assieme il sacro e il profano, poi a voi stabilire dove sia il sacro, dove sia il profano, ma avrà al centro anche il decreto mille proroghe, quello che ha creato una figuraccia, diciamo, al governo, ossia lo raccontammo in diretta prima della pausa natalizia. Il decreto legge Salva Roma sospeso su richiesta del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Cos'era successo? Erano entrati moltissimi emendamenti, oltre a quello famoso per sterilizzare il blocco degli affitti della Camera, di cui molto abbiamo parlato, la manina notturna, ma anche molti emendamenti in cui venivano distribuiti soldi non a pioggia, ma in tanti rivoli, per meglio dire, e ricordando molto quello che era l'assalto alla diligenza della legge finanziaria. E infatti su questo c'è oggi un intervento abbastanza netto del Presidente della Repubblica Napolitano, ne parleremo perché sarà l'argomento della prima parte del programma, proprio su quello che deve essere lo spirito del disegno di legge, del decreto di legge, nel corso del loro esame in Parlamento, e poi anche la reiterazione di alcuni emendamenti già contenuti nel disegno di legge Salva Roma, che poi potrebbero rientrare nel mille proroghe. Napolitano ha detto: attenzione, possono essere reiterati alcuni emendamenti solo se c'è necessità e urgenza, e poi ha chiesto di cambiare i regolamenti sui decreti legge alle Camere, quindi al Senato e alla Camera, per assicurare il massimo rigore nel vaglio degli emendamenti ai decreti, e sostiene il Presidente della Repubblica che bisogna assicurare l'attenenza degli emendamenti al contenuto del decreto legge anche adottando opportune modifiche. Che cosa vuol dire tradotto? Che non può entrarci di tutto. Si chiamava Salva Roma per norme non differibili per il bilancio della città di Roma, dentro è entrato di tutto. Ok, per cui su questo il monito è molto duro. Il governo, comunque, lo ha ricordato il Presidente del Consiglio Letta, ha varato un intervento per complessivi 6 miliardi e 2 di fondi strutturali europei che altrimenti si sarebbero persi, e di opere di immediata cantierabilità. Ne parleremo fra qualche minuto. Per quello che riguarda la borsa, invece, tra i titoli segnaliamo Fondiaria Sai più 6,5%, Gtech più 3% come Exor, Buzzi Unicem più 2,60, il 2,5 guadagna Azimut, e anche Luxottica il 2,30 Mediaset, il 2,1 Telecom e l'1,70 il rialzo di Saipem, ma anche di Pirelli, l'1,50 quello di Atlantia Mediolanum. Fronte opposto invece Monte dei Paschi, meno 2,40% dopo il rinvio della decisione a domani. L'assemblea infatti non ha ottenuto il quorum, il numero minimo di partecipanti, per poco. Domani il quorum si abbassa, resta lo scontro tra la Fondazione Monte dei Paschi di Siena e il Presidente Mansi, con invece l'amministratore delegato e il Presidente della Banca, mi riferisco chiaramente a Fabrizio Viola e Alessandro Profumo. La Fondazione vorrebbe più tempo, arrivare diciamo a metà 2014 per varare l'aumento di capitale, per cercare di vendere alcune delle sue quote nella maniera migliore possibile. Invece i manager della banca fanno notare che per accordi già presi e per un insieme di operazioni questo dovrebbe costare circa 130 milioni di euro in più alla banca, anche perché appunto ne parleremo nel corso dei mercati finanziari, c'è tutto il tema per quello che riguarda il Monte dei Paschi di Siena, anche per degli accordi e delle promesse prese. Faccio notare che il quorum non raggiunto per pochissimo, il 49,33% dei presenti in assemblea rispetto al capitale sociale, serviva però il 50% più uno. E infatti Antonella Mansi, presidente della Fondazione Monte dei Paschi, ha detto: siamo sereni, ci vedremo domani, non abbiamo mai smesso di lavorare, il nostro atteggiamento non è mai cambiato, non posso sapere cosa succederà domani, non sono una strega, ha aggiunto. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, le altre notizie in breve. Sempre forte dopo che ha toccato 1,38 sul dollaro ai massimi dal 28 ottobre, siamo comunque a 1,37,50. Invece, per quello che riguarda altre notizie sui mercati, faccio notare che è andata bene l'asta dei bot a 6 mesi con scadenza 30 giugno 2014. I tassi però sono saliti allo 0,82% contro lo 0,53% di novembre. Tutti assegnati gli 8 miliardi, la domanda non è andata benissimo invece, da 1,77 volte di novembre a 1,30 volte l'offerta. Però è poco mosso il nostro spread, con la differenza tra quanto costa noi trovare investitori per il nostro debito a 10 anni rispetto alla Germania, è fermo a 227 punti. Quelli di spagnoli sono a 228, per cui un punto sopra noi, siamo allineati con la Spagna, però 227 punti inizia a essere uno spread, diciamo, accettabile per i nostri conti pubblici. Ricordo che prima dell'attacco ai debiti di alcuni paesi dell'area euro, quindi prima del novembre dell'estate 2011, il nostro spread viaggiava tra i 150, 130, 170 punti, quindi siamo abbastanza vicini a uno spread accettabile e tra virgolette normale. C'è anche una debuttante, certo che ne parleremo nel listino. Sul mercato alternativo del capitale per le piccole e medie imprese, si chiama Green Italy One, è la 15ª quotazione dell'anno su questo mercato ed è la prima società italiana specializzata nella green economy. In fase di collocamento ha raccolto 35 milioni con un flottante, cioè la parte contendibile, comprabile e vendibile in borsa, che al momento della quotazione era del 30%. Allora, partiamo con il primo tema, che si chiama decreto mille proroghe, alla luce anche del monito del Presidente della Repubblica: basta infarcire i decreti legge di cose che non c'entrano, traduco io in maniera un po' impropria, e alla luce però anche del fatto che il Presidente della Repubblica ha chiesto non solo massimo rigore, ma anche che vengono cambiati i regolamenti. Il Presidente del Consiglio appunto ha fatto sapere che senza il decreto mille proroghe, oltre alle norme non differibili per il bilancio della città di Roma e a quelle che bloccano gli affitti d'oro della Camera, 44 milioni, 44 milioni di euro l'anno, ha fatto notare che c'erano in ballo anche 6 miliardi 200 milioni di fondi strutturali che altrimenti si sarebbero persi. Miliardi 200 milioni di fondi strutturali europei per opere immediatamente cantierabili, secondo il ministro Lupi. Stanziati poi 700 milioni per le misure a sostegno del lavoro, 150 milioni per le decontribuzioni sull'occupazione giovanile, 200 milioni per l'occupazione femminile per i più anziani e 350 milioni per gli interventi a sostegno della ricollocazione dei disoccupati. Tra l'altro, il ministro Giovannini ha sostenuto che nel 2014 vi saranno 4 miliardi 200 milioni di euro impiegati per la riduzione del cuneo fiscale. E dentro al decreto c'è anche la norma che tanto ha fatto discutere sugli affitti d'oro della Camera, il premier Enrico Letta ha chiarito che il decreto milleproroghe contiene anche la norma del disegno di legge Salva Roma, quella poi modificata, sterilizzata, quindi che blocchi gli affitti d'oro. Si sono prese le norme essenziali del testo del cosiddetto decreto Salva Roma, che abbiamo deciso di ritirare dal Parlamento, cioè di ritirare, di non portare a termine in Parlamento per la eterogeneità di norme che ne era venuta fuori. Sono state individuate le norme di quel testo che, la cui non approvazione avrebbe comportato danni al bilancio, ai bilanci, e quindi vengono inserite nel decreto, in particolare, diciamo, le due norme più note, quelle che riguardano la materia fiscale che ha a che vedere con il bilancio del Comune di Roma, e quella cosiddetta degli affitti d'oro. Il premier Letta ha chiesto che il 2014 sia l'anno di riforma del procedimento legislativo, viste le difficoltà incontrate, cioè insomma non funzionano i regolamenti della Camera, non si può avere un decreto legge come il Salva Roma che entra in Parlamento per appunto alcune risorse non differibili per il bilancio della città di Roma più altre cose, e poi viene stravolto. Abbiamo letto di tutto, no, in questi sui giornali in questi giorni, sulle richieste, i milioni da una parte per le varie, ma io non sto contestando la legittimità delle richieste per alcune aree, comunità montane, comuni, province. Il problema è che se un decreto legge si chiama Salva Roma potrà avere dentro quello e poco altro, se no diventa il mille proroghe che già conosciamo, dove entra dentro di tutto. Questo è il problema vero, che poi la mannina che ha sterilizzato la possibilità di bloccare gli affitti d'oro non si sia mai scoperto, cioè, il proprietario di questa manina, la mano morta l'abbiamo chiamata noi, è abbastanza emblematico su un modo anche non trasparente di proporre emendamenti. Cioè, se uno ritiene che sia giusto pagare, che la Camera paghi 44 milioni di euro a un unico immobiliarista ogni anno, lo dica. No, metta la sua firma, il suo nome e cognome nell'emendamento che blocca questa possibilità, tutto legittimo, magari ha ragione lui, ma basta la trasparenza, non la mano nera, la mano morta. Comunque, dicevamo, 6 miliardi 200 milioni di fondi europei, e sentiamo appunto la descrizione di questi fondi dalle parole dello stesso premier Enrico Letta. Questo complesso di intervento per salvare l'utilizzo dei fondi comunitari all'Italia ed evitare i soliti problemi italiani, che non usiamo i fondi strutturali che poi vanno a finire a finanziare l'Irlanda, la Spagna o altri paesi che sono più bravi di noi, si prendono anche i nostri fondi che noi non utilizziamo. Per fare questo si è costruito un intervento fatto di 4 capitoli che cifra un complesso di 6 miliardi e 200 milioni di euro, che potranno e dovranno essere utilizzati in questa coda 14-15. Questi 6 miliardi e 200 milioni di euro, appunto, che si sarebbero persi, con questa operazione siamo in grado di riallocarli laddove li si possono spendere subito nei prossimi mesi, e quindi si può evitare di perderli. Questo intervento, che non è un atto normativo, è un intervento di tipo amministrativo che abbiamo confezionato in modo completo, è un intervento che assegna 2 miliardi e 200 milioni al sostegno delle imprese, 700 milioni di misure a sostegno del lavoro, dell'occupazione, 300 milioni di misure per il contrasto alla povertà, e 3 miliardi di euro di misure a sostegno delle economie locali. Vedo che che fa molto discutere sia via SMS che su Facebook la frase del Premier Letta prima di Natale: il peggio alle nostre spalle. C'è chi dice sì, il peggio alle nostre spalle è che preme, e quindi da dietro, quindi insomma, vabbè. Io sono sempre per evitare queste frasi figurate, diciamo piuttosto che finita la caduta, è finita la recessione, non ci sarà più il segno meno, però la risalita sarà molto molto molto lenta, quindi non illudiamo il paese. A mio avviso occorrono operazioni anche semanticamente di serietà con le parole. La ripresa in atto non si può sentire con i numeri che vediamo. Detto questo, il Premier, dopo aver ricordato appunto dove andranno questi soldi, 700 milioni per il lavoro, 150 milioni per la lotta alla disoccupazione giovanile, 800 milioni contro la povertà l'anno prossimo, e poi ha anche confermato che il Consiglio dei Ministri ha avviato la procedura per nominare Piercarlo Padoan presidente dell'Istat, che sarà quindi il prossimo presidente dell'Istat, numerose volte il nostro ospite, il capo economista dell'Ocse a Parigi, e poi il ministro Giovannini, che insomma vabbè, ha un insieme di cifre di cui prendiamo atto, anche perché è stato a lungo presidente dell'Istat. Intanto che con gli incentivi sono stati creati 35.000 posti di lavoro in più in 5 mesi, e per questo hanno deciso di potenziarli, e che per i giovani attraverso i fondi di giugno, e questi nuovi arriveranno quasi 3 miliardi e 800 milioni appunto solo per l'occupazione giovanile. Misure che riguardano il lavoro e l'esclusione sociale, che complessivamente, come abbiamo sentito, cifrano per circa 2 miliardi su questi fondi aggiuntivi. Primo capitolo, lavoro. Abbiamo potenziato l'incentivo per i giovani, per l'assunzione di donne, per l'assunzione di over 50. In questi 5 mesi questi incentivi hanno già creato 35.000 posti di lavoro in più, quindi in 5 mesi gli incentivi stanno in qualche modo avendo successo, abbiamo deciso di potenziarli. C'è un altro modo di leggere queste risorse aggiuntive, perché abbiamo sentito che una parte vanno ai giovani, una parte va all'autoimprenditorialità, in particolare giovanile. Allora, molto si parla della cosiddetta garanzia giovani, che è il programma che parte nel primo trimestre del 2014. E alcuni hanno detto, ma sono solo 1,5 miliardi per il biennio 2014-2015. Bene, attraverso i fondi che abbiamo già stanziato a giugno e attraverso questi ulteriori fondi, in realtà stiamo parlando di quasi 3,8 miliardi, perché all'1,5 miliardi dei fondi comunitari nuovi, freschi, dobbiamo aggiungere tutti gli incentivi per i giovani, tutti gli incentivi per le nuove imprese, i tirocini e così via che abbiamo già messo in campo. Quindi queste risorse ci consentono di portare, in teoria naturalmente, vedremo poi l'attuazione concreta, e qui faccio un'osservazione, a 3,8 miliardi i soldi disponibili per la garanzia giovani. Qual è l'osservazione che voglio fare, che ha già ricordato il ministro Trigilia? Questi fondi vanno a sostenere tutte misure già presenti nella normativa, quindi non abbiamo bisogno di fare nuove norme di attuazione, ma vanno soltanto a finanziare fondi che già esistono. Va bene, non c'è motivo per non credere al ministro Giovannini. 3 miliardi e 800 milioni, tanta roba, per i fondi per la disoccupazione giovanile. Così come il fatto che nel 2014 il cuneo fiscale verrà ridotto per 4 miliardi e 200 milioni, anche qui non abbiamo motivo per non credere, però vorremmo capire dove, in che direzione, da questo punto di vista. Faccio notare che c'è chi, anche sul Financial Times e anche nel dibattito corrente in questo momento, il capo economista di Citigroup sostiene che la cosa migliore sarebbe ridurre le tasse sulle imprese, non solo sui lavoratori, per rendere attrattiva l'Italia come paese per gli investimenti. C'è chi invece sostiene che si dovrebbe abbattere o ridurre l'IVA per i consumi, personalmente ho più dubbi sull'IVA, anche se un aumento dell'IVA è chiaramente deprime i consumi, perché l'IVA comunque una sua proporzionalità ce l'ha. Cioè, chi spende tanto e ha tanto potere d'acquisto paga anche un'IVA più alta. Ho capito che la paga anche chi ha meno soldi, però così come sulla tassazione alle imprese, sì, giusto rendere più attrattivo il paese, ma in questo momento l'Italia è ferma perché sono sottoterra i consumi, come adesso leggeremo anche su alcuni dati che riguardano Natale. Quindi ridurre il peso fiscale a chi le tasse è obbligato a pagarle, perché la trattenuta ce l'ha in busta paga, magari concentrando tutto sotto una certa soglia, sotto i 30.000 euro di reddito annuo lordo, sotto i 50.000 euro di reddito annuo lordo da busta paga, significa andare a dare un beneficio immediato a chi comunque l'evasione non la fa, non perché sia migliore necessariamente, ma perché non può nemmeno farla, per cui hai un beneficio immediato. Ecco perché riteniamo che la diminuzione del cuneo fiscale fatta in maniera seria possa incentivare qualche consumo in più. Comunque, il ministro Giovannini sui fondi a disposizione. Vorrei anche ricordare che, visto che complessivamente gli incentivi per giovani, donne e over 50 cifrano a 1,2 miliardi di euro, quando si parla del fatto che la legge di stabilità ha stanziato solo 3 miliardi per la riduzione del cuneo, in realtà bisogna aggiungere anche questo 1,2 miliardi. Quindi siamo a complessivi 4,2 miliardi di riduzione del cuneo nel 2014. Va bene, va bene. E poi il ministro Lupi che ha detto l'operazione di recupero degli stanziamenti dei fondi strutturali, 6 miliardi e 200 milioni citati da Letta, andranno su opere che avranno immediata cantierabilità e operatività. Poi altre notizie: le Poste italiane non aumenteranno le tariffe, lo ha affermato il responsabile dei rapporti con i consumatori Romolo Giacani. Ancora un'ennesima stangata di prezzi e tariffe invece si abbatterà, secondo Adusbef e Federconsumatori, sulle famiglie italiane a partire dal 1 gennaio 2014. Secondo i calcoli appunto di Adusbef e Federconsumatori, l'aggravio sarà di 1.380 euro a famiglia. Non sono legati questi nuovi aumenti alle solite volontà speculative, ma anche a nodi risolti nella nostra struttura economica, servizi pubblici che scaricano sprechi, inefficienze e clientelismo su prezzi e tariffe, legge la voce ATAC Roma, giusto per fare un esempio, no? Dove si sono mangiati di tutto e anche con accordi illegali sul prezzo dei biglietti, e poi paga Pantalone, cioè noi. Pantalone che assomiglia sempre più a Arlecchino, però se va avanti così. E adesso, visto che siamo sotto Natale, un premio che non assegniamo noi, lo ha assegnato sempre il Codacons. Il premio è poco invidiabile, devo dire, è il premio Tartassato dell'anno, edizione 2013. Vince il premio Tartassato dell'anno, edizione 2013, il pensionato italiano con la motivazione per essere riuscito a sopravvivere nonostante abbiano più volte cercato di fargli la festa. E in particolare il premio va a quella metà dei pensionati che riesce a campare con meno di 1000 euro al mese, 1000 euro di pensione al mese, dimostrando in tal modo che i miracoli esistono, sebbene dal 2002 ad oggi il loro potere d'acquisto si sia costantemente ridotto. E quindi un premio e un applauso soprattutto al pensionato sotto i 1000 euro al mese. Complimenti, buone feste, bravo, l'applauso glielo facciamo, se ne ricordasse qualcuno anche ogni tanto oltre agli applausi. Penso che nessuno voglia vincere questo premio, comunque vedremo nel 2014 a chi andrà. Mi piacerebbe che andasse, diciamo, ai costi della politica. A proposito dei costi della politica, dov'è che ho letto che comunque oggi non posso fare la rubrica, abbiamo altre notizie, però la Camera e il Senato hanno tagliato le loro spese quest'anno, ed è giusto ricordare questa notizia. Minori uscite rispetto a quanto preventivato, un risparmio per lo Stato di circa 34 milioni di euro. è un beneficio che sarà di 100 milioni di euro tra il 2013 e il 2016. La spesa complessiva ammonta a 541 milioni di euro, l'1,6% in meno rispetto a quanto preventivato. Ammazza che sforzo! Cioè, sono contento, però l'1,6%, chiedere alla voce, guardare alla voce famiglie italiane per sapere come tagliare un po' di più. E invece Palazzo Madama, il Senato, rispetto ai 594 milioni del 2010, riduce nel 2013 di 53 milioni di euro le sue spese, quasi il 10%, anzi il 12,5% se considerato l'ultimo decennio. Gli ultimi tagli che arrivano dalla Camera riguardano le retribuzioni del personale. I risparmi saranno di 450.000 euro per il taglio o riduzione di alcune indennità considerate non più attuali e di 22 milioni di euro a partire dal gennaio 2016. Ancora due dati, poi andiamo col meteo e commentiamo la borsa assieme ai nostri ospiti. L'Agenzia delle Entrate, in 13 anni di attività ha recuperato 90 miliardi di euro sul versante della lotta all'evasione. Si è passati dai 3,8 miliardi del 2001 ai 13 miliardi portati in cassa lo scorso anno. E la capacità di recupero degli uomini guidati da Attilio Beffara è quindi quadruplicata, mentre Confindustria fa notare che al sud sta rallentando il calo, ma il nostro mezzogiorno ha perso 43 miliardi di PIL in 6 anni, 600.000 posti di lavoro in meno, anche se un po' di fiducia nelle imprese, anche nelle imprese meridionali, sta arrivando. Chi saranno le lepri per il 2014? Secondo le Camere di Commercio, e quindi Union Camere, le lepri a livello regionale saranno Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte. Grazie all'impulso della domanda estera, dell'export, più 4% quasi previsto l'export nel 2014. Ancora invece male il settore delle calzature in Italia, meno 7% quest'anno, nonostante sia cresciuto l'export. In 9 mesi si sono perse 142 aziende, 1500 posti. Ripeto, nonostante la capacità di esportare, una lieve crescita della produzione industriale dell'1,4% in quantità e del 3% in valore, l'export è cresciuto di quasi il 5% e vale, quello delle nostre calzature, 6 miliardi e 400 milioni di euro. Chiudiamo questa prima parte consolandoci con le nostre bollicine che volano sui mercati esteri, più 50% Prosecco, Ferrari, Franciacorta in Regno Unito, più 30% in Russia, più 25% negli Stati Uniti, bene anche Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia e Paesi Baltici. Un'unica battuta d'arresto, la Germania, mamma mia, la Germania anche su Prosecco, mi rompete le scatole, meno 22%. Mexican. 17:38 minuti, non potevamo non chiudere questa settimana con la base musicale che per primi, quasi per primi, individuammo. No, non mi guardate così, a febbraio-marzo, poi la stanno usando tutti, l'abbiamo levata anche noi. Grazie anche a tutti quelli che ci fanno i complimenti per la musica che scegliamo, non è l'obiettivo principale del programma, ma insomma, viste le notizie, un po' di ritmo, no? Allora, l'America va a chiudere l'anno con un 25% di rialzo sul Dow Jones e un 40% sul Nasdaq, un 30% sul Standard & Poor's. Il Nikkei in Giappone fa quasi il 60% di rialzo. In Europa, Francoforte più 25% dall'inizio anno, Parigi più 15, Madrid più 20, Londra più 13,5, Milano nella media con un 15% di rialzo per il FTSE MIB, invece l'indice generale più 16%, ricordo che nel 2011 fece meno 20 e l'anno scorso più 8%. Molti parlano di un anticipo delle borse sulla ripresa economica che dovrebbe arrivare nel 2014. Allora, intanto ringrazio i nostri ospiti, Giovanni Tamburi, presidente del Ministero delegato di Tamburi Investment Partners, che è una banca, è un fondo di investimenti quotato anche a Piazza Affari, 220 milioni circa di capitale, se non ricordo male, vari soci. Cosa fa? Mette i soldi in, la dico brutalmente, in titoli o quotati in borsa o anche non quotati di aziende che ritiene avere un grosso potenziale di crescita. Buonasera Tamburi. Buonasera a tutti. Beh, le è andata bene con Moncler, perché lei a agosto è entrato nella società che ha il 32% di Moncler, Ruffini Partecipazioni, ne ha acquisito per 103 milioni il 14%, poi Moncler ha fatto il botto in borsa, più 44% in un giorno. Contento, Molto contento, grazie. Prego. Però vorrei sapere che cosa prevede per il 2013. Mi dia solo un minuto, perché nel commentare la borsa oggi non ci sono tanti casi. Ce n'è uno però che vorrei approfondire, mi riferisco al Monte dei Paschi di Siena. E allora Andrea Fontana, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Monte dei Paschi di Siena, non hanno raggiunto il quorum in assemblea, domani ci ritentano anche perché il quorum è più basso, ma resta lo scontro tra la fondazione che vuole fare l'aumento di capitale a metà anno e invece Viola e Profumo, quindi amministratore delegato e presidente, che lo vogliono fare subito. Beh sì, infatti la tensione diciamo ha pesato anche sul titolo, oggi volumi forti, 2,5% del capitale trattato, una flessione del 2% che ci stava come reazione anche emotiva del mercato. Chiaramente sono molte poi le indiscrezioni che sono circolate al termine dell'assemblea, tra cui quelle anche di una dimissioni del presidente, sì, Alessandro Profumo. Quindi la tensione è forte, così come l'incertezza che il mercato ha dimostrato più volte non apprezzare, per questo anche penalizzato il titolo, e attende di capire cosa succederà domani o lunedì nel caso si vada all'assemblea di lunedì. Ancora per quello che riguarda invece un altro titolo, visto che Monte dei Paschi è peggiore, facciamo il migliore, Fondiera SAI più 6,5%, qui c'è anche un'indiscrezione del Sole 24 Ore, no? Sì, diciamo che è arrivata questa offerta da parte della belga Ageas sugli asset assicurativi che il gruppo Fondiaria Assai Unipol deve cedere per rispettare le indicazioni dell'antitrust, doveva cederla entro la fine dell'anno, quindi entro questa settimana, diciamo così. Chiaramente il mercato era piuttosto scettico sul rispetto della tempistica, non è detto che questo avvenga perché l'offerta non è stata ancora formalmente accettata, l'operazione non è stata chiusa, però chiaramente la formalizzazione dell'offerta ha fatto sì che tutti i titoli della galassia Fondiaria SAI Unipol festeggiassero, ed è anche significativo come Fondiaria SAI un po' nell'anno nero dei Ligresti sia stata la società che ha festeggiato di più sul FTSE MIB, ha guadagnato il 134%, è stata seconda solo a Jux, che è entrata nel FTSE MIB per la verità solo pochi giorni fa. Bene, anche Buzzi Unicem più 3%, Gtech più 2,80%, Xor più 2,5% come Luxottica, Azimut più 2,40% come Mediaset, Telecom più 2,20% come Enel, il 2% lo guadagna CNH Industrial, ma anche Pirelli, negativa la Pop Milano invece, meno 1,50%, i migliori e peggiori, Invest più 21,46%, Premafin più 19,20% e Ferrovie Nord Milano più 11%, assieme a Fiera Milano più 10%, peggiori. Papa Zucchi sul risparmio non convertibili, poca roba, Stefanè meno 2,60, Adventure Group meno 3,50, Società Aeroporto di Torino, se non ricordo male, che ha perso ed è il peggiore in assoluto, Aeroporto Toscano, scusatemi, meno 4,41%. Un augurio di buon fine anno anche a tutti i colleghi di Radio Cori Sole 24 Ore. Allora, Giovanni Tamburi, l'anno è andato bene, 2014, andiamo subito al punto, 2014? Andrà bene anche quello secondo me, cioè, è un anno... Parliamo della borsa sempre? Certo, sì. È un anno nel quale si parte un po' alti, perché certamente, come lei ha detto prima, il 2013 è andato bene borsisticamente, il 2012 era andato discretamente, ma secondo me anche il 2014, specie per le aziende buone, internazionali, particolari, quelle che potranno cogliere o stanno già cogliendo i sintomi della ripresa, sarà un anno buono. Su buono le parla dell'Italia o dell'Europa? Perché poi i sintomi della ripresa da noi vogliono dire 0,4, 0,7, in altri paesi un po' di più. Sia dell'Italia che dell'Europa, anzi secondo me quest'anno l'Italia potrà fare meglio dell'Europa in genere, dopo due anni in cui fa peggio, perché siccome siamo arrivati un po' tardi, ma comunque il mercato sta riscoprendo l'Italia, gli investitori internazionali stanno arrivando molto pesantemente sull'Italia, sia dagli Stati Uniti che dall'Asia, il caso Moncler l'ha dimostrato, ma comunque gli afflussi netti di capitali dei fondi internazionali sull'Italia stanno aumentando di giorno in giorno, credo che le aziende italiane potranno performare meglio delle aziende europee. In quali settori, nel senso quelli collegati all'export? Sicuramente quelli saranno i migliori e i primi che reagiranno positivamente, però in generale, cioè anche i dati che lei ha appena dato su alcune società italiane, anche nel settore di assicurazioni o cose di quel genere lì, performeranno bene. In particolare comunque io credo che le società che esportano, le società internazionali, le società che hanno innovato potranno essere le prime a beneficiare di questa ripresa che oggettivamente c'è in tutto il mondo. Tamburi, ma come si giustifica una borsa che va bene e con un paese che se va bene sarà in stagnazione o ripresa lentissima? Ma allora, bisogna fare un discorso di livella, come diceva Trilussa, un discorso di medie. Le aziende buone sono andate bene nel 2013, andranno bene, anzi meglio, nel 2014. Le aziende che facevano fatica, e di questo anche ai vostri microfoni abbiamo parlato tante volte, avranno sempre più difficoltà. Per cui non è che il paese fa zero o farà 0, qualche cosa totalmente. Ci sono aziende che stanno morendo e che purtroppo è giusto che muoiano, anche se tutto ciò è triste, perché non hanno innovato, non hanno prodotti buoni, non sono internazionali, e di fatto devono pagare lo scotto di una selezione darwiniana che probabilmente è la prima delle nostre generazioni, ma che dobbiamo pagare, che dobbiamo purtroppo subire, e per cui saranno nuovi disoccupati, nuovi problemi, però ciò non toglie che ci siano aziende che beneficiano di questa congiuntura internazionale che sta migliorando. Sicuramente è stato un buon anno per il suo titolo, Tamburi, perché lei partiva a inizio anno con circa un titolo a 1,49 euro se non ricordo male, e adesso viaggia sui 2,5 euro. Complimenti. Senta, Tamburi, lei che segno zodiacale ha? Toro. Toro? Ah, sì. Toro, proprio un segno da borsa, non poteva che fare l'investitore in borsa uno come lei. Che cavolo. Il segno dell'orso non esiste, per cui... Allora, no, glielo chiedo per un motivo molto semplice, perché l'appuntamento più atteso, questo la dice lunga sulla serietà del conduttore di questo programma, nel 2013 sta arrivando. Salagadula, mencicabula, bibidi bobidi bu. Mettele insieme che accade laggiù, bibidi bobidi bu. Grazie Mirti, una delle massime esperte di astrologia finanziaria, che ha pubblicato anche un libro con il Sole 24 Ore, lo ricordo ogni volta, Investire con gli astri. Buonasera. Buonasera. Allora, vediamo chi ha sbagliato le previsioni nel 2000 e intanto nel 2000, sul 2013. BlackRock diceva l'Europa avrebbe fatto meglio di Wall Street e non ci ha azzeccato. John Paulson, uno dei più famosi manager di hedge fund, che previde la bolla dei subprime, non ne ha azzeccata una. A febbraio Barclays prevedeva che l'euro-dollaro potesse scendere sotto 1,30 in 6 mesi, siamo ai massimi 1,38, complimenti anche a Barclays. Mirti, lei non ha azzeccato nulla con me, perché un anno doveva essere un anno abbastanza buono, mi sono spaccato malleo, le gambe e tutto, ma queste sono cose private, ne discuteremo assieme io e lei. Vediamo invece come andrà la borsa secondo lei nel 2014, vediamo se c'è qualche coincidenza tra l'analisi, diciamo, tecnica e macroeconomica di Giovanni Tamburi e l'analisi astrologica sua, così tocchiamo il fondo. Non so per, non la so, ringrazio per il fondo. No, ma io ho premesso che ognuno può decidere cos'è sacro e cos'è profano, no, perché molti ritengono che sia più sacra l'astrologia delle analisi tecniche. Prego. Si comincia brillantemente con la prima luna nuova. Il 2014 è un anno dalle 13 lune E la prima è proprio all'ora di pranzo del 1 gennaio ed è fortemente capricorno, quindi fortemente euro, fortemente borse, fortemente positiva. Perché l'euro è del segno del capricorno, giusto? Sì, esattamente, anche la CE. Mentre la signora Merkel purtroppo è di tutt'altro segno opposto, quindi che non segno è ha? Proprio che segno ha? Cancro. Cancro, beh. Cancro. È un segno per alcuni anche, vabbè, un appellativo. Vabbè, andiamo avanti, dai, sto zitto. Ecco, e quindi diciamo che si comincia molto bene. Poi c'è una fase delicata che è intorno al mese di aprile, che un mio collega americano praticamente ha fatto una ricerca fino all'1 dopo Cristo e non ha mai ritrovato una simile configurazione, quindi un fatto eccezionale intorno a metà aprile dovuto a un contrasto di pianeti piuttosto forte. Lì c'è un rischio sicuramente. Ma il rischio chi riguarderà? La borsa? La borsa statunitense. E poi perché lì ha fatto tutte le statistiche del panico, finisce il quantitative easing, il tapering in America, smette di stampare dollari, così capisco io. Comunque andiamo anche ora. Poi invece c'è un altro punto abbastanza critico che è a fine estate. Praticamente noi abbiamo adesso Marte che è entrato in bilancio il 7 dicembre e ci sarà fino al 26 luglio, un evento eccezionale. Dal 26 luglio entra in Scorpione e lì tra fine agosto e settembre c'è un altro punto un po' dolente in cui potrebbe manifestarsi una discesa. Per il resto sì, va avanti tranquillamente, purtroppo l'economia reale non è particolarmente favorita. Ecco, mi scusi, quindi anche lei concorda più o meno con Tamburi al di là di questi periodi aprile, fine estate? In generale trovo che lui abbia detto delle cose accettabili, cioè che accettabili dagli astri, diciamo, perché uno può dire quello che vuole, certo, accettabili certo, dal quadro certo. astrologico. E mi dica una cosa, il governo Letta, visto che qua parliamo di mangiare il panettone. Allora, il governo Letta è un leone come potrebbe segno, anche riuscire ad arrivare al prossimo autunno, però credo che lui rappresenti un po' una specie di cozza per Renzi, che è un capricorno invece e che ha delle buone chance, però nel confronto reciproco credo che Letta sia un po' un abbraccio faticoso per Renzi. Senta, cosa vuol dire che il Saturno entrerà in Sagittario, quando è che entra in Sagittario? Il 23 dicembre del 2014. Vuol dire che praticamente peggioreranno poi i rapporti internazionali, magari anche peggio di adesso, non si sa. Comunque lei lo chiede a livello personale? No, tanto che il mio compleanno è noto, ma me lo dica anche a livello personale a questo punto, andiamo veramente. No, diciamo che Saturno che entra nel proprio segno indica intanto logicamente il passaggio del tempo che passa e più non torna, e poi indica anche, secondo gli studiosi della materia, che ti dà dei premi se tu hai lavorato bene in precedenza, quindi può essere un riconoscimento per chi si è speso e si è impegnato. A livello collettivo, poiché il Sagittario rappresenta i viaggi e i fattori internazionali, certamente li raffredderà un po', cioè si creeranno nuove tensioni internazionali. Ultima nota sulle borse a livello europeo, visto che le borse hanno un segno zodiacale, qual è quella favorita secondo lei? Quella favorita io direi che potrebbe essere quella tedesca. Perché ha un segno particolarmente positivo? Ma è del segno della Vergine, però diciamo che ha dei supporti molto forti, superiori a quelli di Wall Street, superiori a quelli di Tokyo e di Londra. E come andrà finanziariamente parlando per il Toro? Per il Toro direi che dipende se è un Toro di aprile o di maggio, si può sapere? Tamburi? Aprile o maggio? Aprile. Aprile, quindi è già superato le sue difficoltà e dovrebbe andare positivamente. Altra se volta. Si esclude quel pezzetto di estate, gli consiglierei di fare le vacanze in anticipo. Eccoci qua, piove sul bagnato Tamburi, già ha fatto un botto quest'anno, va bene anche l'anno prossimo. Vabbè. Sì, sì, sì, sì. Allora, ultima domanda invece per Giovanni Tamburi, a parte il fatto che mi sembra che anche le stelle confermino le sue previsioni, spero che non sia quella la fonte però delle sue previsioni Tamburi. Mi dica che cosa invece teme che potrebbe andare storto, cioè al netto di quante, di quella che è la sua previsione, che cosa potrebbe, e qui torna a essere molto serio, anche prima ero serio, e mi riferisco soprattutto agli occhi puntati sull'America quando rientrerà, diciamo, dallo stampaggio di moneta. Ma secondo me più che lo stampaggio di moneta, in America c'è da temere i dibattiti all'interno del Congresso fra democratici e repubblicani sul tetto del deficit. Quello è un punto, secondo me, cruciale. Io credo che i mercati abbiano già scontato tapering, post-tapering, eccetera, eccetera, per cui se ne fa un gran parlare, ma se anche ci dovessero essere delle accelerazioni, il mercato le ha già scontate. C'era qualche piccola correzione, ma chi come noi investe nel lungo termine non deve mai guardare queste cose. Per cui io credo che quei contrasti lì all'interno del Congresso americano potrebbero dare un pochino di tensione in più, ma credo che comunque si supereranno, anche perché la volontà politica che si è vista della Fed e del governo americano è tale per cui si deve andare avanti. Mi dica un settore invece in cui lei non investirebbe in questo momento, cioè per l'anno prossimo chiaramente. Ma in Europa sicuramente continuerei a non investire nell'immobiliare, perché l'immobiliare è ancora troppo pieno di offerta e per cui non ci investirei. Credo che, visto che l'abbiamo detto negli collegamenti dei mesi scorsi e che è andata piuttosto bene, Fiat sarà uno dei titoli migliori del 2014. Fiat. Ci abbiamo azzeccato a gennaio, ci abbiamo azzeccato a maggio-giugno, mi pare abbiamo fatto un altro collegamento, e secondo me Fiat riuscirà a conquistare il 100% all'intorno di Chrysler, e per cui il titolo Fiat farà come ha fatto il titolo CNH, e per cui avrà un incremento importante sia il titolo che i bond Fiat, perché sono ancora apprezzati all'italiana, pur essendo un'azienda che per oltre l'80% del fatturato è un'azienda americana, per cui credo che quella possa dare grandi soddisfazioni. Allora, io nel ringraziare Giovanni Tamburi, buon anno, buon inizio anno a lei, buon inizio anno anche a Grazia Mirti. Ho capito bene, Mirti, che qui c'è un problema, che Marte resta nella bilancia fino al 26 luglio, cioè i problemi attuali ce li trasciniamo fino a luglio 2014? Esatto. Voglio anche dire che effettivamente Fiat riceve dei forti supporti dal segno da Giove in Cancro, quindi è probabile che quello che dice Tamburi si realizzi. Quindi cioè, c'è una coincidenza, astrologia, previsione, fate una società assieme, la Tamburi and Stars Patrons. Va bene, grazie anche a lei, grazie a Mirti, come sempre il nostro ospite nei momenti cruciali dell'anno, e buon nuovo anno anche a lei, anche se lei sa già tutto del nuovo anno, quindi che glielo dico, a fa. No, il sogno di oggi non è un sogno contro i costi della politica, della pubblica amministrazione, dei banchieri d'affari americani. Abbiamo sognato tutto l'anno, è un sogno rivolto a voi, che passiate un ottimo fine d'anno e un ancora migliore inizio anno. Focus Economia sarà sempre in diretta. Personalmente ci risentiamo dalle 17 in poi, del 7 gennaio. Radio 24. La passione si sente.